in viaggio per gli Stati Uniti, a cura di Viaggi di Cultura di Bologna. L'ondata iconoclasta negli USA. Un fenomeno di portata mondiale che tuttavia è arrivato sulle nostre cronache soprattutto per gli eventi legati alla morte di George Floyd nel 2020 è stata l'ondata iconoclasta negli Stati Uniti. Ecco, questo abbattimento di statue in realtà era già iniziato ed è stato mappato anche da diversi studiosi universitari americani e soprattutto era iniziato a partire dal 2017 e infatti nel corso di una manifestazione pacifica proprio per la rimozione di determinate statue erano intervenuti dei suprematisti bianchi in macchina che avevano poi ucciso travolgendola un afrodiscendente. Nella narrazione televisiva, giornalistica e in parte anche di alcuni storici, questo abbattimento delle statue vuol dire solo rimuovere la memoria storica, non risolvere il problema del razzismo perché non è abbattendo le statue che lo si fa e anzi c'è stato un movimento opposto di difesa, protezione dei monumenti. Tuttavia ci sono storici dell'arte, storici che si sono interrogati sul significato di questa forma di iconoclastia che in realtà non è tanto legata all'immagine in sé, no? Ad avere dei problemi con quella immagine, quanto al significato politico che quella immagine porta con sé. E non solo, perché gran parte di coloro che criticavano questi abbattimenti scrivevano dei testi, ad esempio rivalutando positivamente la figura di Cristoforo Colombo, dicendo che quindi dovevano essere ignoranti le persone che abbattevano la statua. E anche qui storici e storici dell'arte hanno detto: attenzione, questo movimento è fatto contro chi ha realizzato e ha eretto il monumento, non tanto contro chi viene rappresentato o solo contro chi viene rappresentato da quel monumento. Perché quel monumento nello spazio pubblico è un monito che dice alle comunità minori: sei stata accettata, ma il cittadino onorevole, quello che viene messo sul piedistallo, è estraneo alla tua comunità, continua a essere nella nostra comunità. E ora un'altra critica che veniva fatta molto spesso a questi movimenti era di essere appunto ignoranti, di essere violenti, quando critiche specifiche per anni erano state mosse e c'erano state richieste, raccolte firme per la rimozione di queste statue, mai ascoltate. E allora la cosa interessante di questo movimento è che in qualche modo ha creato un'altra immagine distruggendo un'immagine, cioè l'immagine più grande che è riuscita a darci è proprio quella che ci è arrivata tramite i giornali della distruzione delle immagini e ha dato un grande incoraggiamento al cambiamento e speriamo in qualche modo che questo processo continui anche se c'è qualcuno che sorgerà di naso. Viaggio di Cultura ha presentato In viaggio negli Stati Uniti. Puoi riascoltare tutti gli episodi sul sito di Radio Città Fujiko.